volte mi domando se vivrei lo stesso senza te, se ti saprei dimenticare. Ma passa un attimo e tu sei tutto quello che vorrei, incancellabile oramai. Sembrava un'altra storia che